Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti, il fregattatore, vi accompagna per questa nuova puntata del weekend di Ferry Boat verso gli appuntamenti della settimana. Cominciamo con segnalarvene uno domani. A Milano, nell'Aula Magna della Società Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, c'è un confronto sul grande tema della gestione pubblica e gestione privata dell'acqua. Vi ricordo che il 12 giugno c'è la consultazione popolare. Ecco, per ricordare perché sì e perché no, c'è questo incontro che vede protagonisti Paola Brambilla, che è presidente del WWF Lombardia, e Stefano Puzzo, che è presidente degli Amici della Terra. La settimana che viene è anche la settimana del Festival del Fundraising, che è diventato ormai l'appuntamento classico annuale a Castel Carlo Terme. Dall'11 al 13 maggio i professionisti del no profit si incontrano per lavorare insieme, per cogliere gli spunti più interessanti, per comunicare in maniera efficace ed efficiente e per cercare soprattutto di riuscire ad alimentare i flussi di denaro che servono a tenere in piedi il no profit, vista l'area che tira nella sede istituzionali. E anche la settimana di Equa, che è la fiera ligure del commercio equo solidale, ce ne parla Roberta Greco, che è portavoce di Equa. Buongiorno a tutti. Sì, Equa inizia il 12 maggio ed è la fiera ligure del commercio equo solidale. È un'idea portata avanti da 15 organizzazioni liguri, che comprendono sia importatori di commercio eco solidale sia botteghe del commercio equo, ben 23 botteghe del mondo. È il punto di incontro del lavoro di più di 400 volontari che si occupano da anni di commercio eco solidale e che grazie alla regione Liguria hanno potuto allestire, pensare già nel 2008 la prima equa, la prima fiera appunto ligure. Siamo alla quarta edizione quest'anno, con tante sorprese nuove, quindi non solo legate al commercio ecosolidale ma anche proprio all'allestimento. Infatti Equa sarà allestita tutta con mobili ecocompatibili e tutti i pranzi, le cene che serviremo Equa non solo saranno piene dei gusti, dei colori, dei prodotti del commercio equo, ma saranno serviti in materiali, piatti, bicchieri e posate, tutti biodegradabili. Quindi vogliamo coniugare un'attenzione forte al sud del mondo attraverso il commercio equo insieme a un'attenzione forte verso l'ambiente. Quindi saranno 4 giorni di iniziative: la mattina iniziative con le scuole, animazioni, laboratori con centinaia di bambini delle scuole genovesi e non solo. E poi i pomeriggi, tantissime opportunità per far entrare il commercio equo nel proprio quotidiano. Quindi trattamenti cosmetici, sfilate di moda, lezioni di cucina a fianco a cuochi del sud del mondo, aperitivi, critical drink e anche ovviamente appuntamenti di spettacolo. Quindi il cabaret che ci sarà il giovedì sera, il sabato sera avremo la banda di Piazza Caricamento, che è un'orchestra insomma di musica etnica. Bene. Composta da tantissimi insomma stranieri che vivono e fanno musica a Genova. E poi un appuntamento importante di cui ho sentito, avete appena parlato, su Milano. Venerdì sera proietteremo in un cinema vicino a Piazza Caricamento il film One Water, proprio perché vogliamo parlare di acqua. Di acqua pubblica, del fatto che l'acqua non è una merce. Speriamo insomma di stimolare un'attenzione forte verso il referendum del 12 giugno. Bene, grazie Roberta Greco, è una bella manifestazione. Chiudiamo con una notizia, andiamo a Roma, c'è il Forum IPA 2011, la 22esima edizione di questa grande mostra convegno dove si incontrano il pubblico e il privato. L'obiettivo ovviamente è tentare di fare quello che nel nostro paese non sempre riesce bene: far dialogare le imprese, l'amministrazione pubblica, il mondo della ricerca, il terzo settore e i cittadini per ottimizzare le risorse e le idee. Questo è tutto per Ferry Boat. Vi ricordo che il nostro indirizzo è ferryboat@radio24.it e che il Ferry Boat va in onda alle 6.50 del mattino e alle 14 nell'edizione domenicale. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Mauro De Angeli in regia.